E come annunciato, siamo in corrispondenza con Mineo, dove troviamo un compagno della rete antirazzista catanese. Pronto, ci senti? Sì, ciao a tutti. Ciao. E se ci vuoi raccontare cosa sta succedendo? Ma praticamente la protesta è iniziata stamattina alle 6 puntuali, oltre 500 immigrati hanno bloccato la Catania Gela nel quadrivio di fronte al CAR di Mineo. Un altro gruppo si è spostato verso il paese a bloccare le strade laterali. È stata una manifestazione molto determinata, impedendo il transito ai mezzi, si è fatto passare solo un'autoambulanza. Il dato positivo è che c'è una notevole presenza di donne e bambine che buona parte sono dell'Africa subsahariana, in maggioranza eritrei, proprio perché per ricordare Mulu è il ragazzo eritreo 21enne morto dentro il CAR venerdì scorso. Quindi è la continuità questa dell'incontro interetnico che nella giornata di azione globale contro il razzismo abbiamo tenuto per la terza volta davanti al CAR di Mineo, e quindi ora la situazione è in evoluzione. Ci stiamo spostando verso il bivio per Palagonia, dove si sta formando un altro blocco. E senti, anche insomma, tu parlavi giustamente insomma della morte dell'altro ieri, e poi insomma anche immaginiamo che anche le notizie arrivate da Lampedusa e soprattutto le condizioni materiali in cui queste persone sono costrette a vivere siano, come dire, i motivi per cui la miccia si è accesa e continua a non spengersi. Sì, praticamente il collegamento è molto vicino, perché la Lampedusa Accoglienza, che gestisce il CPSA di Lampedusa, è diretta dalla cooperativa Sisifo, che fa parte del CAR Mineo come soggetto attuatore. Quindi sono gli stessi carcerieri che esprimono queste politiche disumane nei confronti dei migranti e dei richiedenti asilo. Chiaramente nell'assemblea di ieri si è parlato di Lampedusa, si è accennato anche il processo di costruzione della carta di Lampedusa dal 31 gennaio al 2 febbraio, per cui diciamo si collegano le strage di stato del 3 ottobre ai trattamenti da lager nazifascisti a Lampedusa all'attuale manifestazione a Mineo. Senti, quindi ora voi state bloccando la statale vicino all'altezza del CAR di Mineo? Cioè, i gruppi, non siamo morti come indigeni, però stiamo esprimendo la nostra incondizionata solidarietà a questa lotta in corso. E invece le persone che vivono dentro il CAR sono in maggioranza in rivolta in questo momento? Ma tiene presente che complessivamente sono oltre 4.000 i richiedenti asilo che si trovano dentro il CAR. Penso che in questa manifestazione stiano partecipando almeno 1.000 persone, che però è un dato positivo, perché rispetto anche alle precedenti manifestazioni sta crescendo da una parte il confronto fra le varie comunità, per cui ci sono presenti oltre che africani, dato nuovo, anche alcuni asiatici, mentre fino adesso le rivolte si esplodevano, diciamo, per ondate emotive di una nazionalità senza avvertire neanche le altre. Invece stavolta hanno costruito dal basso una comune piattaforma di lotta che mette al centro la richiesta di avere tempi certi e brevi per le commissioni, perché i tempi per le commissioni per l'esame delle richieste sono quasi quadruplicati. Cioè nel 2011 la media settimanale di esame delle richieste erano 70-80, attualmente sono 30-35, quindi le hanno dimezzate a fronte di un raddoppio dei richiedenti asilo dall'inizio di quest'anno, perché fino all'anno scorso erano circa 1.800-2.000, ora sono oltre 4.000, quindi dimezzando l'esame, raddoppiando le presenze, si quadruplicano i tempi, e questo è uno dei motivi che ha spinto il giovane eritreo a togliersi la vita, perché da 7 mesi era segregato qui nell'incertezza dei tempi della commissione, che può durare in media un anno e mezzo. Senti, non so se vuoi aggiungere qualcos'altro, se no adesso possiamo salutarti e ti richiamiamo tra un po' per insomma seguire allora, la protesta. Sì, è meglio fra poco, anche perché stiamo camminando e sono un po' affaticato, già sono 4-5 km. D'accordo, va bene, per ora grazie. Grazie a te.